Quarantesima traccia. Da parte di lui ciò poteva provenire soltanto dal fatto che egli non ci pensava, ma Emma propendeva piuttosto ad attribuirlo a delicatezza e ad un sospetto nato da certe apparenze che la loro amicizia stesse declinando. Lei stessa s'avvedeva che, separandosi per qualunque altra circostanza, certo esse avrebbero corrisposto di più tra loro, e che le lettere di Isabella non sarebbero state, come erano, quasi la sua sola fonte di informazione. Egli poteva aver osservato come stavano le cose. La pena d'essere obbligata a far sotterfugi nei confronti di lui era di poco minore della pena d'aver reso infelice Harriet. Isabella dette della sua ospite notizie tanto buone quanto potevano attendersi. Appena arrivata le era parsa abbattuta, il che sembrava perfettamente naturale, perché c'era da consultare un dentista. Ma, terminata codesta faccenda, non pareva trovare Harriet diversa da come l'aveva conosciuta prima. Isabella, certo, non era un'osservatrice pronta, ma se Harriet non se la fosse sentita di giocare coi bambini, la cosa non le sarebbe sfuggita. Il benessere e le speranze di Emma vennero secondati nel modo più gradevole dalla decisione di far rimanere Harriet più a lungo. La sua quindicina probabilmente sarebbe stata almeno un mese. Mr. e Mrs. John Knightley sarebbero venuti in campagna in agosto ed essa era invitata a restare finché non potessero accompagnarla. John non nomina neppure la vostra amica, disse Mr. Knightley. Ecco la sua risposta, se volete darci un'occhiata. Era la risposta alla comunicazione di lui circa il suo progetto di matrimonio. Emma la prese con un gesto vivace della mano, con un'impazienza tutta trepidante di sapere che cosa gli avrebbe detto, e per nulla smorzata dal sentire che non si faceva menzione della sua amica. John prende parte come un fratello alla mia felicità, continuò Mr. Knightley, ma pure non è solito far complimenti, e sebbene io sappia che ha, pure, un'amicizia quanto mai fraterna per voi, è tanto lungi dal far fiorettature che qualunque altra giovane donna potrebbe pensarlo piuttosto freddo nelle sue lodi. Ma non ho paura che voi vediate quel che scrive. Scrive come un uomo sensato, rispose Emma quando ebbe letto la lettera. Onoro la sua sincerità. È manifesto che considera il fidanzamento tutto a mio vantaggio, ma che non dispera che, col tempo, io divenga degna del vostro affetto, quale mi ritenete di già. Se avesse detto qualcosa di suscettibile di diversa interpretazione, non l'avrei creduta. Emma mia, non intende dire questo. Egli vuol solo dire: lui e io differiremmo ben poco nella nostra stima dei due, l'interruppe lei con una specie di serio sorriso, molto meno forse di quanto egli non s'avveda, se potessimo abbordare il tema senza cerimonia o riservo. Emma mia, cara Emma. Oh, esclamò lei con una gaiezza più spiccata, se immaginate che vostro fratello non mi renda giustizia, attendete solo che il mio caro babbo sia parte del segreto e sentite la sua opinione. Fateci conto, lui sarà ben lontano dal rendervi giustizia. Lui riterrà che tutta la felicità, tutto il vantaggio sia dalla vostra parte e tutto il merito dalla mia. Mi auguro di non decadere subito a povera Emma con lui. La sua tenera compassione per il merito conculcato non può andare più in là. Ah, esclamò lui, vorrei che vostro padre potesse essere convinto per metà così facilmente quanto lo sarà John, che noi abbiamo ogni diritto che può conferire un merito uguale di essere felici insieme. Mi diverte una parte della lettera di John. L'avete notata? Dove dice che la mia informazione non l'ha sorpreso del tutto, che più o meno si aspettava di sentire qualcosa del genere. Se capisco vostro fratello, egli vuol dire solo che avevate qualche idea di sposarvi. Non pensava affatto a me. A questo egli sembra completamente impreparato. Sì, ma mi diverte che egli abbia veduto così addentro nei miei sentimenti. Da che cosa ha giudicato? Io non sono consapevole di alcuna differenza nel mio umore o nella mia conversazione che potesse prepararlo all'imminenza del mio matrimonio, ora più che in qualsiasi altro tempo. Ma suppongo che sia stato così. Suppongo che ci sia stata una differenza quando io mi trovavo presso di loro giorni fa. Credo di non aver giocato coi bambini tanto come di consueto. Mi ricordo che una sera i poveri ragazzi hanno detto: «Lo zio sembra sempre stanco adesso». Si avvicinava il momento in cui la notizia doveva essere ulteriormente diffusa e in cui si doveva assaggiare l'accoglienza che altri le avrebbero fatta. Appena Mrs. Weston si fu rimessa abbastanza da poter ricevere le visite di Mr. Woodhouse, Emma, ritenendo che dovesse impiegarsi in suo favore la gentile arte suasoria dell'amica, decise di dare la notizia prima a casa, poi a Randalls. Ma come comunicarla finalmente al padre? Si era impegnata a farlo in un certo momento in cui Mr. Knightley sarebbe stato assente, o quando si fosse venuti al punto, le sarebbe malcato il cuore ed essa avrebbe dovuto rimandare la cosa. Ma Mr. Knightley doveva arrivare proprio in quel momento e far seguito al principio che avrebbe fatto lei. Era forzata a parlare, e a parlare anche gaiamente. Non doveva renderlo un tema più decisamente penoso per lui, adottando lei stessa un tono melanconico. Non doveva sembrare ritenerla una sfortuna. Con tutta la vivacità che riuscì a darsi, dapprima lo preparò a qualcosa di strano. Poi, in poche parole, disse che se si potevano ottenere il suo consenso e la sua approvazione, ed essa confidava che non sarebbe sorta alcuna difficoltà, poiché il progetto mirava a promuovere la felicità di lui, lei e Mr. Knightley intendevano sposarsi. In questo modo Harfield avrebbe ricevuto l'aggiunta costante della compagnia di quella persona che essa sapeva che egli amava più di tutte al mondo, dopo le sue figlie e Mrs. Weston. Poveretto, dapprima fu per lui un colpo considerevole, ed egli cercò caldamente di dissuaderla. Più di una volta le venne richiamato alla memoria che aveva sempre detto che non si sarebbe mai sposata e aveva assicurato che sarebbe stato per lei molto meglio restare nubile. E le vennero fatte presenti la povera Isabella e la povera Miss Taylor, ma non servì a niente. Emma gli stava intorno tutta affettuosa e sorridente e diceva che doveva essere così e che egli non doveva classificarla con Isabella e con Mrs. Weston, i cui matrimoni, portandole via da Harfield, avevano davvero prodotto un mutamento melanconico. Ma lei non se ne andava da Harfield. Lei sarebbe stata sempre lì. Non introduceva alcun cambiamento nel numero dei componenti della famiglia o nel loro benessere, se non in meglio. Ed era sicurissima che egli sarebbe stato assai più felice avendo Mr. Knightley sempre accanto, una volta che si fosse abituato all'idea. Non voleva egli molto bene a Mr. Knightley? Non l'avrebbe negato, ella ne era sicura. Chi voleva consultare sugli affari se non Mr. Knightley? Chi era tanto utile a lui? Chi così pronto a scrivere le sue lettere? Chi così lieto di assisterlo? Chi così gaio, così premuroso, così affezionato a lui? Non gli sarebbe piaciuto d'averlo sempre sul posto? Sì, tutto questo era verissimo. Mr. Knightley non poteva essere lì abbastanza spesso. Sarebbe stato lieto di vederlo ogni giorno. Ma lo vedevano bene ogni giorno anche nelle circostanze presenti. Perché non potevano continuare come prima? Mr. Woodhouse non poté rassegnarsi presto. Ma il peggio era superato. L'idea era stata data. Il tempo e la ripetizione continua avrebbero fatto il resto. Alle preghiere e alle assicurazioni di Emma seguirono quelle di Mr. Knightley, il cui affettuoso elogio di lei rese il tema perfino gradito. E ben presto egli si abituò a sentirsi imbonire da ciascuno di loro due ogni volta che se ne offriva l'occasione. Essi ebbero tutto l'aiuto che poteva dare Isabella, con lettere redatte nei termini della più calda approvazione. E Mrs. Weston fu pronta, appena si incontrarono di nuovo, a considerare il tema nella luce più vantaggiosa. Prima di tutto come un tema sistemato e, in secondo luogo, come un buon tema, ben conscia dell'importanza quasi pari delle due raccomandazioni per la mente di Mr. Woodhouse. Si misero d'accordo su quel che doveva farsi, e ciascuno da cui egli soleva lasciarsi guidare, assicurandolo che sarebbe stato per la sua felicità, e avendo lui stesso alcuni sentimenti che quasi l'ammettevano, egli cominciò a riflettere che un giorno o l'altro, forse fra un anno o due, non sarebbe poi stato tanto male se il matrimonio avesse avuto luogo. Mrs. Weston non recitava nessuna parte, non fingeva alcun sentimento in tutto ciò che disse a lui in favore delle nozze. Era rimasta estremamente sorpresa, non mai tanto come quando Emma per la prima volta le rivelò la cosa. Ma essa non ci vide che un aumento di felicità per tutti e non ebbe scrupolo alcuno di fare tutto il possibile per persuaderlo. Aveva una tal considerazione per Mr. Knightley da pensare che egli meritasse persino la sua carissima Emma. E sotto ogni aspetto era un'unione così appropriata, conveniente e irreprensibile, e per un certo verso un punto della massima importanza, così indovinata, così singolarmente fortunata, che ora pareva che Emma non avrebbe potuto senza rischio innamorarsi d'un altro, e che era stata la più ottusa delle creature a non averci pensato e a non averlo desiderato un bel pezzo prima. Quanto pochi di quegli uomini che per posizione sociale avrebbero potuto far la corte a Emma avrebbero rinunziato alla loro casa per Harfield. E chi, se non Mr. Knightley, poteva conoscere e sopportare Mr. Woodhouse si da rendere desiderabile una tal sistemazione? La difficoltà di sbarazzarsi del povero Mr. Woodhouse era stata sempre avvertita nei progetti di Mrs. Weston e di suo marito per un matrimonio tra Frank e Emma. Come conciliare le pretese di Enscombe e di Harfield era stato un continuo impedimento, meno riconosciuto da Mr. Weston che da lei stessa, ma anche lui non era mai riuscito a concludere l'argomento meglio che dicendo «Queste faccende si accomoderanno da sé, i giovani troveranno il modo». Ma in questo caso non c'era nulla da rimandare con una strampalata congettura circa il futuro. Tutto andava bene, era aperto e uguale. Né da una parte né dall'altra alcun sacrificio che potesse chiamarsi tale. Era un'unione che recava in sé la più alta promessa di felicità e senza una sola difficoltà reale, ragionevole, da contrastarla o ritardarla. Mrs. Weston, con la sua bambina sulle ginocchia, mentre si abbandonava a riflessioni di questo genere, era una delle donne più felici del mondo. Se qualcosa poteva aumentare la sua letizia, era l'accorgersi che il primo corredino di cuffiette sarebbe proprio diventato troppo piccolo per la pargoletta. La notizia provocò una sorpresa universale dovunque si diffuse. E Mr. Weston ne ebbe la sua parte per 5 minuti. Ma 5 minuti bastarono per rendere l'idea familiare alla prontezza del suo spirito. Vide i vantaggi del matrimonio e si rallegrò di essi con la stessa fedeltà di sua moglie. Ma la meraviglia della cosa presto si ridusse a nulla e in capo a un'ora egli non era lungi dal credere d'averla sempre prevista. «Deve essere un segreto, arguisco», disse. «Faccende di questo genere sono sempre un segreto, finché non si scopre che lo sanno tutti. Solo che mi si dica quando posso parlare apertamente. Mi domando se Jane abbia qualche sospetto». Si recò a Highbury la mattina seguente e verificò questo punto. Le diede la notizia. Non era Jane come una figlia, la sua figlia maggiore? Doveva dirglielo. Ed essendo presente Miss Bates, La notizia passò naturalmente a Mrs. Cole, a Mrs. Perry e a Mrs. Elton immediatamente dopo. Non era più di quanto si erano aspettati i protagonisti. Avevano calcolato quanto avrebbe fatto presto, una volta conosciuta Randalls, a diffondersi a Highbury, e pensavano a se stessi come alla meraviglia della serata in parecchi circoli familiari, con gran sagacia. In genere fu un'unione che riscosse larga approvazione. Alcuni potevano pensare più fortunati lui, altri lei. Un gruppo poteva raccomandare che tutti si trasferissero a Donwell e lasciassero Hartfield alla famiglia di John Knightley, e un altro gruppo poteva predire disaccordo tra i loro domestici. Ma pure, in complesso, non venne sollevata alcuna obiezione seria, eccetto che in una casa, la canonica. Lì la sorpresa non fu mitigata da alcuna soddisfazione. A Mr. Elton ne importò poco in confronto a sua moglie. Sperava solo che l'orgoglio della signorina fosse ora soddisfatto e suppose che lei avesse sempre mirato ad accappare Knightley se le fosse riuscito. E circa l'andare ad abitare a Hartfield poté arditamente esclamare: «Meglio lui di me». Ma Mrs. Elton era proprio scombussolata. «Povero Knightley! Poveraccio, che triste faccenda per lui!» Essa era estremamente preoccupata, poiché, sebbene egli fosse molto eccentrico, possedeva mille buone qualità. Come aveva potuto farsi ingannare così? Non lo credeva affatto innamorato, proprio per niente. Povero Knightley, sarebbe stata la fine dei piacevoli rapporti con lui. Come era stato felice di venire a pranzare da loro, ogni volta che l'avevano invitato. Ma ora niente di tutto questo. Poveretto, non più gite d'esplorazione a Donwell combinate apposta per lei. Oh no, ci sarebbe stata una Mrs. Knightley a guastare ogni festa. Proprio sgradevole. Ma a lei non dispiaceva affatto d'aver detto male della governante uno dei giorni precedenti. Che progetto impossibile quello di vivere insieme. Non sarebbe mai riuscito. Lei conosceva una famiglia presso Maple Grove che ci si era provata ed erano stati costretti a separarsi prima della fine del primo trimestre. Il tempo passò. Ancora qualche domani e sarebbe arrivata la comitiva da Londra. Ed Emma ci stava pensando una mattina come a un avvenimento che doveva recarle un bel po' d'agitazione e di pena, allorché entrò Mr. Knightley e i pensieri angosciosi furono messi da parte. Dopo il piacere delle prime chiacchiere, egli rimase zitto. Poi, in tono più grave, annunciò «Ho qualcosa da dirvi, Emma. Una grossa notizia». «Buona o cattiva?» fece lei rapidamente, guardandolo in viso. «Non so come dovrebbe definirsi». «Buona di sicuro. Lo vedo dalla vostra aria. Fate sforzi per non sorridere». «Ho paura», disse lui dando al viso un'espressione seria. «Ho molta paura, mia cara Emma, che voi non sorriderete quando la sentirete». «Davvero? Ma perché? Non posso immaginare che una cosa che piace a voi o vi diverte non debba piacere anche a me e divertirmi». «Non c'è che un argomento», egli rispose, «e spero che sia un solo argomento sul quale non la pensiamo allo stesso modo». Fece una breve pausa, sorridendo di nuovo, fissandole gli occhi in viso. «Non vi viene nulla in mente? Non vi ricordate? Harriet Smith?» Le guance di lei si imporporarono a udire questo nome, ed essa ebbe paura di qualcosa, sebbene non sapesse di che. «V'ha dato notizia lei stessa stamattina?» esclamò lui. «Ho l'impressione che sia così, che sappiate tutto». «No, non è così. Io non so nulla. Vi prego di darmela». «Siete preparata al peggio, lo vedo. E la notizia è davvero cattiva. Harriet sposa Robert Martin». Emma ebbe un sussulto che non dava davvero a di vedere che fosse preparata. E i suoi occhi, dallo sguardo intento, dicevano: «No, è impossibile». Ma le sue labbra erano chiuse. «È proprio così», continuò Mr. Knightley. L'ho saputo dallo stesso Robert Martin. Mi ha lasciato che non sarà passata neanche una mezz'ora. Lei continuava a guardarlo col più eloquente sbigottimento. La cosa vi garba, Emma, tanto poco quanto io temevo. Quanto mi piacerebbe che la pensassimo allo stesso modo. Ma col tempo sarà così. Il tempo, potete starne certa, farà che uno di noi due la pensi diversamente. Frattanto, non c'è bisogno che parliamo molto della cosa. Mi fraintendete, proprio mi fraintendete, rispose lei facendo uno sforzo. Non è che una circostanza come questa possa rendermi infelice ora, ma non posso credere. Sembra impossibile. Non volete mica dire che Harriet Smith ha accettato Robert Martin? Non volete mica dire che egli le ha ripetuto la sua domanda? Volete solo dire che intende farlo? Voglio dire che l'ha fatto, rispose Mr. Knightley con fermezza sorridente, ma risoluta, e che è stato accettato. Dio buono, esclamò lei. Allora? Poi, ricorrendo al suo cestino da lavoro, come un pretesto per chinare la faccia e nascondere tutti i deliziosi sensi di gioia e di divertimento che essa sapeva di dover esprimere, aggiunse: «E ora ditemi tutto. Rendetemi questo comprensibile. Via, dove, quando? Fatemi sapere tutto. Io non sono mai rimasta tanto sorpresa, ma ciò non mi rende infelice, vi garantisco. Ma come? Come è stato possibile?» «È una storia semplicissima. Lui si è recato a Londra per affari 3 giorni fa. E io gli chiesi di incaricarsi di certe carte che volevo mandare a John. Ha consegnato a John queste tavole, al suo ufficio, ed è stato invitato da lui a unirsi alla loro comitiva la stessa sera all'anfiteatro di Astley. Conducevano da Astley i due ragazzi maggiori. La comitiva consisteva di nostro fratello, di nostra sorella, di Henry, John e Mrs. Smith. Il mio amico Robert non ci seppe resistere. Lo sono andati a prendere cammin facendo. Tutti si sono divertiti un mondo e mio fratello l'ha invitato a pranzo da loro il giorno dopo. E lui ci è andato. E nel corso di quella visita, a quel che intendo, ha trovato modo di parlare a Harriet. E certo non ha parlato invano. Con la sua accettazione l'ha reso felice quanto merita. È tornato qui con la diligenza di ieri ed era da me stamattina, immediatamente prima di colazione, per raccontarmi quel che era successo, prima di tutto circa i miei affari, poi circa i suoi. Ecco quanto io posso riferire sul come, sul dove e sul quando. La vostra amica Harriet avrà da raccontarvi una storia assai più lunga quando la vedrete. Vi darà tutti i minimi particolari che solo il linguaggio d'una donna può rendere interessanti. Nelle nostre comunicazioni diamo solo le grandi linee. Tuttavia devo dire che il cuore di Robert Martin pareva per lui e a me traboccare addirittura, e che egli ha ricordato, senza che fosse molto in proposito, che lasciando il loro palco al teatro, mio fratello si era preso cura di Mrs. John Knightley e del piccolo John, e che lui era venuto dietro con Mrs. Smith e con Harry, e che a un certo punto si erano trovati in una tale ressa che Mrs. Smith si era sentita piuttosto a disagio. Egli si fermò. Emma non osò tentare una risposta immediata. A parlare era sicura che avrebbe tradito un grado quanto mai irragionevole di felicità. Doveva attendere un momento, o lui l'avrebbe creduta pazza. Il silenzio di lei lo disturbava, e dopo averla osservata per un po', egli aggiunse: «Emma, amor mio, avete detto che questa circostanza non vi avrebbe adesso resa infelice, ma ho paura che vi dia più pena di quanto vi aspettavate. La posizione sociale di lui è uno svantaggio, ma dovete considerarla come quella che soddisfa la vostra amica. E io vi garantisco che penserete sempre meglio di lui via via che lo conoscerete di più. Il suo buon senso e i suoi sani principi vi farebbero molto piacere. Per quel che riguarda l'uomo, non potreste desiderare la vostra amica in mani migliori. La sua posizione sociale io la cambierei, se potessi. E questo è dir parecchio, vi assicuro. Voi ridete di me per William Larkis, ma potrei altrettanto male fare a meno di Robert Martin. Egli voleva che Emma alzasse gli occhi e sorridesse, ed essendo riuscita a contenere il suo sorriso in limiti ragionevoli, Emma così fece e rispose lietamente: «Non dovete darvi pena per farmi rassegnare a codesto matrimonio. Penso che sia un ottimo partito per Harriet. I parenti di lei possono essere peggiori di quelli di lui. Quanto a rispettabilità di carattere, non ci può essere dubbi che lo sono». Sono rimasta zitta solo per via della sorpresa eccessiva. Non potete immaginare quanto la notizia mi sia giunta imprevista, fino a che punto io non ci fossi preparata, poiché avevo ragione di credere lei ultimamente più decisa contro di lui, molto di più che non lo fosse prima. «Dovreste conoscere meglio la vostra amica», rispose Mr. Knightley, «ma io direi che essa è una ragazza di buona pasta, dal cuore tenero, incapace di essere proprio decisa contro un giovane che le dice d'amarla». Emma non poté fare a meno di ridere mentre rispondeva: «Parola d'onore, credo che la conosciate altrettanto bene di me. Ma, Mr. Knightley, siete proprio sicuro che essa l'ha addirittura accettato? Potrei supporre che col tempo riuscirebbe ad accettarlo, ma può averlo già fatto? Non l'avete mica frainteso. Voi due parlavate d'altre cose, di affari, di mostre di bestiame o di nuove seminatrici. Non avete potuto, nella confusione di tanti argomenti, capirlo male? Non era nella mano di Harriet che egli era certo, ma delle dimensioni di qualche bove famoso. Il contrasto tra l'aspetto e l'aria di Mr. Knightley e di Robert Martin era così forte in questo momento ai sensi di Emma, e così forte era il ricordo di tutto quello che Harriet aveva manifestato così di recente, così fresco il suono di quelle parole pronunciate con tanta energia: «No, spero adesso di saper fare di meglio che pensare a Mr. Martin, che davvero s'aspettava che la notizia si dimostrasse in qualche modo prematura. Non poteva essere diversamente». «Osate dir questo?» esclamò Mr. Knightley. «Osate ritenermi un tale balordo da non sapere di che parla un uomo? Che cosa meritate?» «Oh, io merito sempre il miglior trattamento, perché non ne tollero altro, e perciò dovete darmi una risposta semplice e diretta. Siete proprio sicuro di capire in che rapporti siano ora Mr. Martin e Harriet?» «Sono sicurissimo», egli rispose, spiccando bene le parole, «che egli mi ha detto che lei l'ha accettato e che non c'era alcuna oscurità, nulla di dubbioso nelle parole da lui usate, e credo di potervi dare una prova che deve essere così. Ha chiesto il mio parere su quel che doveva fare ora. Egli non conosceva altri che Mrs. Goddard a cui rivolgersi per informazioni sui parenti o gli amici della ragazza. Potevo io suggerire di fare qualcosa di più conveniente che andare da Mrs. Goddard? L'ho assicurato che non ero in grado di farlo. Allora disse che avrebbe cercato di vederla nel corso di quest'oggi». «Sono perfettamente convinta», rispose Emma col più raggiante dei suoi sorrisi, «e auguro loro sinceramente ogni felicità». «Siete sostanzialmente cambiata da quando abbiamo parlato prima di questo argomento?» «Spero di sì, perché allora ero una sciocca». «E anch'io sono cambiato, perché ora sono dispostissimo a concedervi tutte le buone qualità di Harriet. Mi son dato pena, per via di voi e per via di Robert Martin, che ho sempre avuto ragione di credere che non cessasse di amarla, di conoscerla più da vicino. Spesso le ho parlato a lungo. Dovete aver visto che lo facevo. Qualche volta, in verità, ho creduto che voi quasi mi sospettaste di patrocinare la causa del povero Martin. E questo non è mai stato il caso. Ma tutte le mie osservazioni mi hanno convinto che è una ragazza ingenua, amabile, di buona istruzione, ottimi principi, che pone tutta la sua felicità negli affetti e nell'utile della vita domestica. Per molto di questo, non ne dubito, essa deve ringraziare voi. «Me!» esclamò Emma scuotendo il capo. «Ah, povera Harriet!» Si frenò tuttavia e si sottomise in pace a un po' più di lodi che non meritasse. La loro conversazione fu subito dopo chiusa dall'entrata del padre di Emma.